La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato all'ultimo libro di Jan Werner Müller, L'enigma democrazia, le idee politiche nell'Europa del Novecento, pubblicato da Einaudi. Una riflessione sugli effetti del crollo delle ideologie che hanno caratterizzato la storia del Novecento. Ospite ai nostri microfoni lo storico Valerio Castronovo. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato al processo politico che portò alla fine dell'apartheid in Sudafrica. La parola va a Dino Pesole. Con la caduta del muro di Berlino e ormai una sorta di luogo comune, sono profondamente mutati gli equilibri geopolitici mondiali. Sono crollate le ideologie che hanno caratterizzato per buona parte la storia del Novecento. Dunque siamo entrati in un'epoca senz'altro post-ideologica. C'è anche chi parla di post-democrazia. Interrogativi che vengono affrontati in modo analitico e con un approccio decisamente stimolante nel libro di Jan Werner Müller, Enigma democrazia, le idee politiche nell'Europa del Novecento, pubblicato da Einaudi. Prima di tutto occorre però esaminare a fondo i motivi di carattere storico, economico, sociale, ma anche culturale che sono alla base dell'affermazione nel Novecento dei due regimi totalitari, comunismo e fascismo, ma anche sul perché non si possa oggi sostenere che la democrazia liberale nei suoi attuali assetti potrà configurarsi anche in futuro come un sistema stabile e sicuro. Jan Werner Müller insegna teoria politica alla Princeton University. Non vedo motivo di andare particolarmente fieri dell'ordinamento costituzionale assunto dall'Europa occidentale nel dopoguerra, sostanzialmente esteso anche ai paesi dell'Est dopo il 1989, e degli ideali che lo ispirarono. Semmai, la coscienza storica del modo in cui gli europei giunsero a tale assetto potrebbe contribuire almeno in piccola parte a spegnere la confortante illusione che la democrazia liberale sia necessariamente la condizione politica predefinita dell'Europa, o più generalmente dell'Occidente. La democrazia è piuttosto un ideale di inserimento delle masse nella comunità politica, di una loro partecipazione reale al processo politico e decisionale. Quanto poi al modello di democrazia che si è affermato in Occidente, la democrazia liberale, Müller fa proprio il giudizio di insufficienza rivolto alle democrazie dell'Europa occidentale del dopoguerra. Secondo lui non hanno rappresentato un ritorno della democrazia, perché in esse il principio democratico è stato fortemente limitato, per lo più da istituzioni non elettive, ma anche da organismi come la Comunità Europea, quindi sovranazionali. Non si è assistito nemmeno a un ritorno del liberalismo, sostiene, poiché i sistemi di sicurezza sociale sono stati introdotti attraverso una sorta di scambio. E poi più tutele, meno libertà. Dunque non è un caso, secondo Müller, che le due forme maggiori di contestazione a quelle che lui chiama democrazie costituzionali e non liberali siano venute dal 68, che ha messo in crisi il primo aspetto, e dal neoliberismo che ha criticato il secondo. Allora, abbiamo in linea lo storico Valerio Castronovo. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, vorrei intanto proporle di ascoltare insieme questo passaggio della recensione che lei ha scritto domenica 17 febbraio, proprio sul libro di Müller. Una volta finita l'epoca delle ideologie di un tempo, c'è da chiedersi se l'89 abbia segnato il sopravvento d'un pragmatismo tale da svuotare, o comunque da emarginare, il ruolo dell'immaginazione e del pensiero politico. Secondo Müller, è avvenuto semplicemente che oggi sia meno pressante, data la scomparsa di determinati problemi che avevano dato luogo alla preponderanza dei verbi dottrinari del passato, la ricerca di nuove proposte collocabili in grandi disegni ideologici. Egli ritiene tuttavia che la teoria marxista, in particolare, abbia ancora una sua specifica valenza, a patto che la si declini, in base alla lezione di Lukács, non più come dogma, ma come metodo. D'altra parte, Müller esprime più d'un dubbio nei riguardi della tesi che la democrazia liberale, quale è venuta configurandosi nel secondo dopoguerra nell'Europa occidentale, in versione cristiano-democratica e socialdemocratica, per poi estendersi agli ex paesi comunisti dell'Est, sia destinata a tenere il campo in avvenire riproducendo le stesse caratteristiche. Allora, professor Castronovo, ci aiuti un po' a capire. La democrazia, a quel che pare, non sta granché bene in salute. Ma guardi, rispetto alla tesi dominante sino a qualche anno fa, che la storia era finita, nel senso, come diceva Fukuyama, che il capitalismo aveva vinto su tutta la linea e la democrazia liberale si era affermata una volta per tutte e anzi avrebbe esteso le sue frontiere, e noi abbiamo assistito negli ultimi 10 anni ad una situazione assai più complessa e diciamo anche a rischio sia diciamo per il futuro, lo sviluppo del capitalismo, e sia per diciamo la presenza e le fortune della democrazia. Intanto, se noi andiamo a vedere, l'area della democrazia è rimasta sostanzialmente circoscritta al versante euroatlantico, più alcune propaggini naturalmente nell'America centro-meridionale, in Asia, in Estremo Oriente e naturalmente in Oceania, in Australia. E in pratica noi abbiamo assistito in alcuni paesi ex comunisti dell'est al sopravvento di regimi oligarchici, se non diciamo in qualche caso autocratici. E dunque le frontiere della democrazia non si sono estese. E poi ci sono 3 fenomeni che secondo me, secondo anche in pratica l'analisi di Müller, mettono a rischio le fondamenta della democrazia liberale, dei regimi democratici come attualmente li stiamo conoscendo. Tutti e 3 questi fenomeni sono dovuti in un modo o in un altro alla crisi economica e ai processi di globalizzazione. E mi spiego. Innanzitutto noi stiamo assistendo ad un assottigliamento e anche a una retrocessione sociale del ceto medio, che è sempre stato il pilastro, il tessuto connettivo dei regimi democratici, no? E questo proprio per effetto della crisi, professore? Per effetto della crisi, certo. Per effetto certamente della crisi. Stiamo poi assistendo alla insostenibilità finanziaria del welfare, ossia di un sistema che ha costituito la leva fondamentale delle politiche di equità e di solidarietà e di protezione sociale. È stato uno dei meccanismi, dei congegni, diciamo, della libertà e anche di libertà democratica e anche dei diritti di cittadinanza sociale, soprattutto intorno agli anni 70-80 questo è avvenuto. E poi c'è un terzo fenomeno che è la progressiva formazione di una società multietnica in Europa. Questo è già avvenuto negli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti si è trattato di un lungo e complesso processo. In Europa oggi, in seguito a un'immigrazione crescente di gente in cerca di lavoro proveniente da paesi diciamo extracomunitari e con fedi religiose e convinzioni assai diverse da quelle dell'Occidente e in pratica soprattutto di comunità di religione, di fede musulmana e con forti tendenze fondamentaliste, e qui si pone il problema di integrare diciamo questi nuovi immigrati, che sono nuovi cittadini anche, nell'ambito delle istituzioni di un sistema laico, democratico è basato sulla parità dei sessi fra uomini e donne, tanto per diciamo, riferirmi a quelle che sono le maggiori difficoltà diciamo che oggi i paesi occidentali, soprattutto in Europa, incontrano. D'altro canto, professore, se noi guardiamo a quello che è avvenuto negli ultimissimi anni, la democrazia è certamente un modello difficilissimo da esportare. Guardiamo anche a quello che è accaduto nella cosiddetta primavera araba, dove si sono affermati nuove realtà, ma non certo di situazioni di democrazia. Sì, rispetto, diciamo, a quella che era la convinzione degli anni 90, soprattutto durante il secondo mandato di Clinton, no? In cui si diceva tutto sommato la rivoluzione informatica, la terza rivoluzione tecnologica avrebbe in pratica assicurato uno sviluppo ulteriore al sistema capitalistico, al neocapitalismo, e avrebbe naturalmente dei suoi vantaggi, avrebbero beneficiato tutti, a cominciare diciamo da quanti appartenevano ai paesi industriali più avanzati, e rispetto anche alla convinzione che era allora dell'amministrazione democratica americana che le frontiere della democrazia si sarebbero allargate, di qui per esempio le guerre, diciamo, di ingerenza umanitaria, no? Che si sono combattute sotto l'egida della NATO, oppure per l'intervento soprattutto, diciamo, anglo-americano. Ebbene, tutto questo abbiamo visto che poi non è avvenuto di fatto, e oggi noi assistiamo in Europa ad una rinascita, anzi un'insorgenza sia del populismo sia della xenofobia. Sì. E questo è estremamente pericoloso per la democrazia. La democrazia, Müller giustamente dice, sappiamo come la democrazia, per, diciamo, sopravvivere, svilupparsi, abbia bisogno sempre di perfezionarsi, perché non c'è una direzione di marcia assolutamente univoca, certo, e lineare, certo, nel tempo. I problemi si pongono in continuazione di volta in volta. Grazie professore, buona serata. Buona serata anche a voi. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte di La storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alla politica di segregazione razziale attuata in Sudafrica dal 1948 e al processo che portò, con la liberazione di Nelson Mandela nel 1990 dopo 24 anni di carcere, alla fine dell'apartheid. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 23 febbraio, alle 21 su History Channel. Emmett Davids, attrice. Se potessi tornare indietro a 25 anni fa, non sarei in grado di immaginare il Sudafrica così come oggi. Rolf Meyer, Partito Nazionale. Nessuno pensava che ci sarebbe mai stata una soluzione per il conflitto sudafricano. Credo che ci sia una convinzione errata sull'origine dell'apartheid. È iniziato nel 1652, quando i primi europei sono arrivati in Africa. Hanno portato con sé il concetto di superiorità e inferiorità ed erano convinti di essere superiori agli indigeni dell'Africa. Era un modello di oltre 300 anni prima. Charlize Theron, attrice e filantropa. Per anni e anni la gente non si è sentita al pari di un'altra razza. Mafela Ramfele, Black Consciousness Movement. L'umanità dei bianchi era sminuita dal loro tacito consenso e dal loro coinvolgimento negli assalti all'umanità dei neri. Oprah Winfrey, conduttrice TV. L'oppressore porta il fardello e il peso del dolore di chi è oppresso. James Joseph, ambasciatore degli Stati Uniti in Sudafrica dal 1996 al 2000. Quando inizi a credere che una differenza di cultura e una differenza di status significano una differenza di razza, diventi capace di ogni tipo di atrocità. Puoi sfruttare la gente, puoi opprimerla, puoi ucciderla, senza che la tua coscienza ne risenta. Era uno dei sistemi più malvagi che la mente umana avesse mai creato. Era così malvagio che ha praticamente distrutto le stesse persone che lo appoggiavano. Arcivescovo emerito Desmond Tutu. Nessuno di noi avrebbe potuto dire con certezza che se ci fossimo trovati nei panni dei colpevoli non ci saremmo comportati nello stesso modo. James Joseph, ambasciatore degli Stati Uniti in Sudafrica dal 1996 al 2000. Ben pochi paesi che hanno avuto il tipo di sistema rappresentato dall'apartheid hanno avuto la giusta leadership per andare oltre, verso un mondo nuovo. Cyril Ramaphosa, capo negoziatore, Congresso Nazionale Africano, 1991-93. Nel corso della nostra rivoluzione abbiamo avuto leader molto saggi. Gillian Slovo, scrittrice nata in Sudafrica. Queste persone erano politici in senso molto più ampio, perché facevano parte di una lotta politica e non è la stessa cosa che far parte del governo. Mac Maharai, conferenza per il Sudafrica democratico, 1991-1993. C'era una leadership che cresceva nel paese, c'era una leadership in esilio e c'era una leadership rinchiusa in prigione. Ognuno di noi è modellato dalle proprie esperienze e ciò che Mandela ha affrontato ha tirato fuori il meglio di lui. James Joseph, ambasciatore degli Stati Uniti in Sudafrica dal 1996 al 2000. È sorprendente che dopo 27 anni di carcere sia riuscito a dimostrare intelligenza emotiva, intelligenza morale, intelligenza sociale e intelligenza spirituale. Oprah Winfrey, conduttrice TV. In prigione ha subito una trasformazione ed è riuscito a vedere un modo per aprire la strada alla libertà per sé, gli altri prigionieri e per la nazione intera. Non sarebbe mai accaduto se lui non fosse stato questo tipo di uomo. Arcivescovo emerito Desmond Tutu. Quando Nelson Mandela è uscito di prigione, non era consumato dall'amarezza. Neil Barnard, capo South African International Intelligence Service, 1980-1992. In quanto politico, era interessato a diventare il nuovo presidente del Sudafrica e sapeva molto bene che non sarebbe diventato il presidente del Sudafrica se non avesse trovato un accordo politico con le autorità del tempo. Mac Maharai, conferenza per il Sudafrica democratico, 1991-1993. E quando la gente come me è andata in prigione, ha trovato in lui una persona che stava già mettendo in pratica quelle capacità. Abbiamo eletto Mandela nostro portavoce. Il capo del servizio carcerario, il generale Stein, ha iniziato a chiacchierare con lui ed è allora che Mandela ha fatto qualcosa che non smetterà mai di sorprendermi. Con la sua voce decisa, ma calma, ha detto: «Generale, io e lei siamo in fazioni opposte in questa guerra. Un giorno, anche se avremo combattuto fino al punto di ridurre in cenere il nostro paese, e una fazione emergerà vittoriosa sull'altra, mentre l'altra sconfitta, io e lei ci dovremo incontrare, anche su quella stessa cenere. La qualità di quel momento dipenderà da come io e lei ci siamo trattati oggi. È una cosa su cui dobbiamo riflettere. Raramente mi sono sentito così potente, perché in quel momento ho capito cosa significa sostenere la propria dignità a tal punto da costringere l'altro a rispettarti». Christiane Amanpour, conduttrice televisiva per CNN International. È stata la forza della personalità di Mandela e la forza delle decisioni che ha preso a permettere al Sudafrica di fare un passo verso la pace e diventare un esempio per il mondo. Chi non si ricorda dov'era quando è uscito di prigione? Bill Clinton, 42esimo presidente degli Stati Uniti. Lo ricorderò finché vivrò. Ho svegliato Chelsea, all'epoca aveva circa 9 anni, e le ho detto: «Stanno rilasciando Mandela. Questa probabilmente è la cosa più importante che vedrai in vita tua». Bono, musicista. La gente ricorda Nelson Mandela che esce di prigione nello stesso modo in cui ricorda Neil Armstrong che cammina sulla Luna. Sono stati passi straordinari. F.W. de Klerk, presidente del Sudafrica 1989-1994. Il governo ha preso la ferma decisione di rilasciare il signor Mandela senza condizioni. Non ho avuto una specie di conversione sulla via di Damasco. Non è che una sera io sia andato a dormire credendo fermamente nell'apartheid e il giorno dopo abbia visto la luce e abbia detto che era tutto sbagliato. È stato un processo. Abbiamo dovuto ammettere a noi stessi che eravamo finiti in una posizione moralmente indifendibile. Christiane Amanpour, conduttrice televisiva per CNN International. Il fatto che il presidente bianco e il leader morale dell'Africa nero si siano uniti e ascoltati l'uno con l'altro è stato un miracolo. Mac Maharai, conferenza per il Sudafrica democratico, 1991-1993. Volevamo costruire un ponte che portasse la nostra nazione dal dominio di una minoranza bianca a un sistema democratico basato su una persona, un voto. Il succo della storia è che i sudafricani, che erano in guerra gli uni con gli altri, si sono riuniti attorno ad un tavolo, in pace. La stragrande maggioranza della popolazione nera del Sudafrica, gli oppressi, non aveva fiducia nei negoziati. La loro reazione era: sì, lo stai facendo, ma ascolta, questi boeri ti raggireranno. Hanno un esercito che li sostiene, hanno un governo che li sostiene, hanno i soldi in tasca. Ma quando De Klerk ha tenuto quel discorso e Mandela ha replicato: persino il capo di un regime di minoranza illegittimo e screditato come il suo ha principi morali che non può non considerare. Tutte le loro paure scomparvero. Hanno visto che era un uomo a capo di una squadra indiscutibilmente devota alla nostra libertà. Non si sarebbe arreso. In un attimo era nata la fiducia dei sudafricani nel potenziale dei negoziati. Avete appena ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo «Sull'orlo della rivoluzione», regia di Brett Lothric Best, titolare dei diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione AETN. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 24 febbraio, alle 21 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.